Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, l'unificazione monetaria e legge. Dal 24 agosto 1862, giorno in cui Vittorio Emanuele II ha firmato la legge 788, gli italiani hanno ufficialmente una sola moneta, la lira. La decisione è arrivata dopo un anno di discussioni e dibattiti, dopo un anno in cui la nuova moneta nazionale è stata imposta nel suo corso legale, ma in regime di convivenza a tassi di cambio fissati per legge con almeno 92 delle 268 valute metalliche degli stati preunitari. Ora la lira è l'unica moneta con corso legale, o almeno questa è l'intenzione del governo, che per bocca del ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio Gioacchino Napoleone Pepoli ha così presentato la nuova valuta nazionale. La moneta, mentre corre nelle mani di tutti come segno ed equivalente di ogni valore, è pure il monumento più popolare, più costante e più universale che rappresenti l'unità della nazione. Il voto di Senato e Camera è stato pressoché unanime, ma è stato preceduto da un ampio dibattito sulla scelta dei materiali. Scartata l'ipotesi di un sistema monometallico aureo, perché in Lombardia, Toscana e nel sud circolano solo monete d'argento, si è preferito evitare anche il monometallismo argenteo. L'oro ha una credibilità ritenuta insuperabile e il modello della mitica sterlina spinge in questa direzione. Alla fine, come era prevedibile, ha prevalso il modello da tempo in uso a Torino, il bimetallico. L'oro è stato scelto per i coni da 150, 20, 10 e 5 lire, l'argento per le monete da 2 e 1 lira, ma anche per i 50 e 20 centesimi. Bronzo, infine, per quelle da 10, 5, 2 e 1 centesimo. Tuttavia, qualcuno parla di monometallismo aureo mascherato, perché le monete d'argento non possono essere impiegate negli scambi internazionali. Quanto alla circolazione di banconote, di carta moneta, dunque, per ora è scarsa. I dati del 1861 dicono che a fronte di 1.800 milioni di lire di circolante metallico, il valore delle banconote in circolazione non supera i 200 milioni. Le banche autorizzate all'emissione della carta moneta sono 5: la Banca Nazionale del Regno d'Italia, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.